Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloon, che torna su un argomento già toccato, seppur tangenzialmente, la volta scorsa, ovvero sia questo gap che divideva un'editoria per ragazzi, fumetti ma anche racconti, francese, rispetto a quella italiana. Un problema che naturalmente anche una sua motivazione storica ben evidente. In Francia c'è stato un regime liberale di libertà di espressione e anche quindi anche di editoria, fino ai 2 anni dell'invasione nazista, dove tutto si fermò tranne alcune pubblicazioni clandestine, ma poi nel dopoguerra subito riprese questa attività, quindi ci fu una continuità che permise poi appunto esperienze importanti quali quella di Tintin o anche la stessa Vaillant o ciò che l'ha preceduto prima della guerra. In Italia invece c'è questo grande vulnus, questo grande vuoto, 20 anni di fascismo con un ritardo in generale che ha pesato moltissimo, e quindi nei fumetti, quando si è ripreso in dopoguerra, diciamo, si è dovuto partire da zero, e non a caso ci si è appoggiato molto anche l'editoria francese. Sì, ricordiamo che durante il fascismo tutte le pubblicazioni di fumetti americani furono censurate, assolutamente censurate, e che di fatto si pubblicò solo Topolino, veniva tradotto solo Topolino dalla casa editrice Mondadori. Durante il fascismo c'era una federazione degli editori fascisti italiani, e che diciamo serviva proprio per controllare anche che cosa veniva pubblicato, insomma la censura c'era. Considerate addirittura che per quello che riguarda i libri dei bambini, nelle scuole era presente solo un unico testo, e quindi il problema è stato davvero davvero grande, tenendo anche conto che in Italia, sia durante il fascismo prima ma soprattutto per molti anni successivi, il fumetto era considerato una letteratura per ragazzi assolutamente di serie B, proprio perché passava attraverso un'immagine e attraverso un linguaggio che era assolutamente considerato scarno, quindi era considerata letteratura. Mentre in Francia, assolutamente negli anni 60, nasce dalla Francia l'idea di nominare come nona arte proprio il fumetto. Ma questo ritardo dell'Italia rispetto non solo alla Francia, ma possiamo dire anche l'Inghilterra o i paesi scandinavi, un ritardo che l'Italia in qualche modo condivise con la Germania nazista e non a caso, beh, questo ritardo ci fa sentire poi non solo nel fumetto, nella editoria per ragazzi, pensiamo solamente alla musica jazz e tutto il punto zero che fu dopo la liberazione, che per anni vide un mondo musicale italiano del jazz rincorrere come periferia del mondo ciò che succedeva in America, perché appunto erano rimasti tagliati fuori dalla modernità. E questa cosa, naturalmente, arti moderne come il fumetto e il jazz non potevano non soffrire. Altre arti dove peraltro anche il fascismo investì molto, pensiamo al cinema con Cinecittà o anche all'arte pittorica cavalcando il futurismo, eccetera, però comunque c'è sempre un gap di una distanza che fu legata a questa autarchia dell'ignoranza, diciamo così, della presunzione di autosufficienza del regime fascista. Sì, il fascismo, ricordiamo che comunque finanziava anche le case editrici, nel senso che c'erano dei finanziamenti pubblici, però naturalmente il vero problema era poi, ovvio, come tutti sappiamo, sono banalità, la possibilità poi di pubblicare davvero ciò che si voleva. Appunto, l'eccezione, abbiamo detto, era stato Topolino con la Mondadori. Anche per la Mondadori tutto sommato era un colosso. Poi le ragioni per cui accadde ciò, sembra che piacesse molto al Duce e ai suoi bambini. E i suoi bambini, sì, adesso non sarà solo l'unica spiegazione, però su questo vogliamo consigliarvi questo libro che, appunto, Eccetto Topolino, lo scontro culturale tra fascismo e fumetti, di Fabio Gadducci, Leonardo Gori e Sergio Lama, che è un libro molto interessante su questo tema per chi fosse interessato. Poi ricordiamo che nel dopoguerra, appunto, quando si è dovuto riprendere tutto il tema della formazione delle nuove generazioni, chiaramente nascono una serie di giornali illustrati per ragazzi e per bambini che si ponevano proprio il problema educativo e pedagogico e formativo. Sempre sull'editoria italiana per ragazzi, ma non solo, c'è un altro dibattito che investe direttamente il Pioniere e in realtà l'atteggiamento della sinistra, allora PC in particolare, verso il fumetto. Ostilità o attenzione? Se vero è il giudizio di Sergio Rossi, scrittore, editore, nonché esperto di fumetti, che così descrive il fumetto in Italia partendo dall'arrivo dei fumetti per adulti negli anni 60. Il fumetto per adulti, vero, arriva quando arrivano Diabolik prima e dopo Linus, la rivista, dove c'è la consapevolezza di fare fumetti per adulti, mentre invece in Francia questo c'era già, per dire, in Inghilterra o in America. In America il fumetto è nato per gli adulti, non per i ragazzi, ma a casa è nato nei giornali e non sulle riviste specializzate, non nel Corriere dei Piccoli, non arriva nel Corriere dei Piccoli, quindi arriva con un linguaggio per i bambini. Quando arriva il fumetto, il Corriere e Rodari riporta il fumetto, lo scriveva lui, e poi gli disegnava Raul Verdini, e il Partito Comunista, nella figura soprattutto di Degliotti, gli fa una guerra senza quartiere, perché dice sono letture diseducative, qualunque sia il soggetto della storia. Sarà sempre un motivo di discussione fra chi scrive a sinistra e gli organi del partito che, per partito preso, dicevano che i fumetti erano diseducativi, non erano lettura e non... ed erano da rigettare in toto. Rodari invece li difende, perché dice è la lettura, cioè è un altro linguaggio, ma sarà una lotta, diciamo, riscritta senza quartiere con i vertici del Partito Comunista. Questa cosa accadrà più avanti per il fumetto per adulti, quando esce alla fine degli anni 60 questa mostra fatta da Arturo Caro Quintavalle, si chiama Nero a strisce la reazione a fumetti, dove lui bolla e il suo gruppo come portatori di idee fasciste addirittura, tutta una serie di fumetti da Tex, Topolino, Diabolik, ma tantissimi, dove fanno delle schede dove contano del numero di atti di violenza, spari, parolacce e quant'altro. E la cosa incredibile, io ce l'ho questo catalogo, nessuno di questi autori, di questi studiosi, nessuno si pone il problema di andare a intervistare gli autori di questi fumetti e chiedergli se veramente fossero di destra. La cosa divertente è che moltissimi di questi non erano di destra, tutt'altro. Però si ritrovano bollati, ci sono delle storie di Topolino bellissime che vengono definite come storie di destra, che rileggerle adesso sono non solo innocue, sono dei capolavori della narrativa disegnata, ristampate da 50 anni, però lì si legge proprio il partito preso di voler dimostrare una tesi a dispetto dell'oggetto che tu hai, dei risultati che tu hai, cioè era tutto ricondotto a quella tesi, il successo. E dopo le considerazioni di Sergio Rossi andiamo invece a Yuri Meda, docente dell'Università di Macerata, storico, coordinatore del libro Falce Fumetto, un libro che di fatto ha scritto la storia del fumetto a sinistra dal fine 800 fino agli anni 60. Yuri Meda dà un'altra ricostruzione, da altre valutazioni sui rapporti tra il Pioniere e il Partito Comunista Italiano. La nascita del Pioniere, tuttavia, non è una nascita lineare, nel senso che è vero che in qualche modo il Pioniere è emanazione diretta del partito e nasce per sostituire questa iniziativa privata, ma crea comunque molte tensioni, nonostante venga affidato a due persone, diremmo così oggi, di provata fede, no? Dina Rinaldi, ma poi anche Gianni Rodari, che avevano una chiara impronta ideologica e che erano degli uomini di partito, però ciò non toglie che comunque ai vertici massimi, e questo è risaputo insomma, soprattutto Togliatti, ma poi attraverso Togliatti anche Nilde Iotti, avevano espresso di numerose volte la loro contrarietà rispetto all'utilizzo di quello che veniva interpretato ancora all'epoca come un strumento di comunicazione prettamente americano o comunque molto americaneggiante, insomma eccessivamente americaneggiante, e questo strumento in qualche modo era il fumetto. Uno strumento che di fatto sovrastava secondo loro il contenuto. Diciamo era un, che... Esatto, era uno strumento, era un modo di comunicare il contenuto che secondo loro eccedeva eccessivamente rispetto alla pregnanza dei valori che poteva trasmettere e andava in qualche modo a produrre tutta una serie di effetti devastanti, a loro modo di vedere, nei confronti dell'infanzia, primo tra i quali quello dell'analfabetismo di ritorno, cioè il famoso mito, guardate, è un mito che è durato fino a poco tempo fa, insomma forse in realtà in alcune famiglie ancora si dicono queste cose qui, cioè che il fumetto in qualche modo, non leggere il fumetto perché altrimenti disimpari a leggere, no? Si riteneva che questa compenetrazione così forte tra immagini e testo avesse in realtà degli effetti devastanti sulle capacità di apprendimento, di alfabetizzazione primaria dei bambini, cosa che in realtà non è vera, adesso non entro nel merito, ma numerosi studi hanno dimostrato che non è proprio così, anzi, certo, forse è il contrario. Ecco allora che in qualche modo, diciamo così, questa presa di posizione forte dei vertici del partito, ricordiamoci che siamo nell'Italia dell'immediato dopoguerra, cioè siamo nell'inizio degli anni 50, centrismo pieno, guerra fredda piena. Quindi una stagione nella quale era anche molto difficile avere dei margini di libertà, nelle quali le direttive di partito dovevano essere seguite alla lettera. Quindi un Gianni Rodari che a un certo punto prende la penna per rispondere a Nilde Iotti, che tutti sapevano chi era, cioè era fondamentalmente la compagna di Palmiro Togliatti, che era il grande leader del Partito Comunista, e si prende la briga di spiegare a Nilde Iotti perché non ritiene che invece quello che Nilde Iotti aveva scritto attaccando il fumetto e spiegando che sostanzialmente il fumetto era semplicemente una forma di comunicazione e che poteva essere utilizzata, come successivamente si sarebbe detto anche della televisione, ma pensate anche oggi ai videogiochi, poteva essere utilizzata per trasmettere contenuti positivi come per trasmettere contenuti negativi. Il fatto che gli americani l'avessero utilizzata per trasmettere pistolettate, avventura sfrenata, fantasie spaziali completamente al di fuori di quella che era la realtà, no? E qui c'era il grande richiamo al realismo sovietico, c'era il grande richiamo in qualche modo al senso della realtà, al non far trascendere nel mondo dei sogni i bambini, no? Che era la grande preoccupazione che attanagliava in quel momento il Partito Comunista e il suo entourage, soprattutto legato appunto al Pioniere. Ecco che questa cosa qui è una cosa molto coraggiosa, cioè quello che fa Gianni Rodari non è scontato. Al direttore di Rinascita, Palmiro Togliatti. La Iotti sui fumetti mi pare non abbia tenuto conto della realtà di oggi, qui in Italia, e perciò abbia fatto dell'Accademia. Un giudizio teorico totalmente negativo è inesatto, o perlomeno equivoco, e in un equivoco è caduta la Iotti, secondo me, polemizzando sulla distinzione tra la forma del fumetto e il contenuto del racconto a fumetti. Ha scambiato la forma con il genere, o il mezzo, o lo strumento, o come lo vogliamo chiamare, rappresentato dal fumetto. E perché non sarebbe legittimo raccontare in questo modo? Vi sono molti modi di raccontare, ognuno ha la sua funzione. Se si equivocasse fra la funzione del fumetto e quella della lettura, avrebbe ragione la Iotti, perché evidentemente non sono due cose sostituibili, sono due cose diverse.

lasciarsi attrarre da dimensioni fascinatorie che in uno spazio che fosse invece durissimamente partitico non ci sarebbero. Questo rischio Togliatti lo accoglieva volentieri, volentierissimo, perché sapeva che nell'Italia, prima dell'immediato dopoguerra, poi addirittura del boom, lui è morto nel 64, come noto, quindi un po' di boom l'ha anche visto, bisognava avere quello che lui sapeva, i grandi collaboratori che aveva erano con lui, mettere in questi splendidi giornali che io lodo tutto da mass mediologo, non certo la mia appartenenza politica è nota, ma qui non dico che erano grandi giornali per la mia appartenenza politica, lo dico perché sono un mass mediologo. Erano molto buoni al di là dell'etichetta, al di là della tessera, al di là del colore della bandiera. Ce ne fossero oggi di settimanali come Rinascita, io non ne conosco oggi. Grandi fumetti. I Peanuts di Charles Schulz. Charles Monroe Schulz nasce il 22 novembre 1922 a St. Paul in Minnesota, da padre tedesco e madre norvegese. La sua vita sembra già predestinata al fumetto, quando pochi giorni dopo la sua nascita suo zio lo soprannomina Sparky, dal nome del cavallo Spark Plug, un ronzino che non vinceva mai una gara, protagonista del fumetto Barney Google di Billy the Beck, striscia allora popolarissima, conosciuta nella versione italiana come Barnabò Goggoloni o Bertoldo Scalzapolli. Così Charles diventerà Sparky per tutti, nomignolo con cui firmerà i suoi primi lavori e con il quale lo chiamarono sempre gli amici. È un ragazzo molto timido, schivo, molto bravo a scuola. Eccelle naturalmente in arte, tanto che un insegnante, guardando un suo disegno, commenta: «Un giorno Charles sarai un artista». Durante tutta la sua infanzia, Sparky condivide insieme al padre un simpatico rituale della domenica mattina, leggendo sui giornali dell'epoca strisce divertenti come Skippy, Mickey Mouse e il Popeye di Seeger. Già allora il suo sogno più grande è quello di diventare un disegnatore di fumetti. A 13 anni gli viene regalato un bracchetto bianco e nero, buffo e intelligente, di nome Spike, che Charles prende a rappresentare nei suoi disegni in buffe pose e con particolari inusuali, Spike costituirà la base ispiratrice per il suo bracchetto più famoso, Snoopy. Frequentando le superiori, invece, stringe amicizia con un ragazzo di nome Charlie Brown, che darà il nome ad uno dei suoi bambini più celebri. Dopo il diploma, la sua vita viene segnata da due importanti avvenimenti: la tragica scomparsa della madre, a soli 50 anni per un cancro alla cervice, e una breve ma intensa e drammatica esperienza di guerra nella Francia del 1945. Al suo ritorno negli Stati Uniti, va a vivere con il padre in un appartamento sopra la barberia in cui lavora e viene assunto come insegnante alla Art Instruction School, una scuola di disegno per corrispondenza, dove Schulz incontra numerosi giovani colleghi e trae ispirazioni e suggerimenti per i suoi futuri personaggi. Ad esempio, l'impiegata della contabilità, Dana Ward, suo primo amore non corrisposto, alla quale chiese di sposarlo ottenendo un netto rifiuto, gli ispirerà quel singolare personaggio fuori campo che è la ragazzina dai capelli rossi, eterna innamorata di Charlie Brown. Intanto Schulz continua a studiare e ad affinare il suo stile artistico. Il suo umorismo asciutto ed intellettuale ben si adatta a quelli che sono i diktat dell'epoca: strisce ridotte al minimo, brevi gag, umorismo sottile e immediato. Determinato a portare avanti la sua carriera di fumettista professionista, Sparky spedisce così i suoi disegni a varie redazioni, finché nel 1947 il St. Paul Pioneer Press decide di pubblicare alcune sue strisce dal titolo Lil Folks. Lil Folks, letteralmente personcina, viene pubblicato settimanalmente dal 22 giugno 1947 al 22 gennaio 1950. È considerato come una versione embrionale di Peanuts, contenendo personaggi e tematiche apparsi in seguito nelle successive e più famose strip. Protagonisti sono un gruppo di bambini, tra cui Shredder, con la passione per Beethoven, Charlie Brown ed un simpatico cane molto somigliante a Snoopy. Galvanizzato da questo piccolo riconoscimento, Schulz si convince a mettere insieme la sua migliore produzione e ad inviarla alle più grandi testate ed aziende specializzate in fumetti e cartoni animati, fra cui anche la Disney. Fortunatamente viene subito accettato la United Feature Syndicate di New York, dove il 2 ottobre 1950 debuttano ufficialmente i Peanuts. Peanuts si traduce letteralmente con noccioline, a causa della velocità con cui si divoravano le strisce, ma è da tradurre come cose da poco, sciocchezze. A Schulz il titolo non è mai piaciuto, avrebbe voluto chiamarli Good Old Charlie Brown, ovvero Buon Vecchio Charlie Brown. In pochi anni Peanuts diventano il fumetto più popolare del globo, vengono tuttora pubblicati su 2.293 giornali in 67 paesi. I personaggi della serie sono oggetto di uno sterminato merchandising e protagonisti di una serie di cartoni animati, di due lungometraggi animati e di una commedia musicale nel 1967. La serie è stata anche oggetto di saggistica e di interessamento da parte degli intellettuali di tutto il mondo. Nel 1969 la navicella di comando e il modulo lunare della missione spaziale Apollo 10 sono stati nominati rispettivamente Charlie Brown e Snoopy, nomi di due dei protagonisti della serie. E questa è la prima parte, tratto dalla soffitta di Pippo, ovviamente preso dalla rete, nelle monografie fumetti Charles Schulz e i suoi Peanuts. La seconda parte, cioè la parte di Peanuts in Italia, la troveremo la prossima puntata. Per adesso ciao a tutti, a risentirci. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?